cambiare. Benvenuti a Dedicato. Salutate ragazzi. Ciao a tutti ragazzi. Scusa. Pianista, saluta. Ciao, ciao a tutti. Ah, molto bene. Vabbè ragazzi, dai, siamo in studio, qua abbiamo lo staff di Dedicato, sono tornati, fatevene una ragione, quindi... Buon pomeriggio a tutti qua. Avete qualcosa da dire? Ma niente. Tutti i monti, non so, tipo è ricominciata enorme. La scuola, siete felici? Questa scuola... È un po' particolare, tutti i professori nuovi, le cose magari... Ma sei sicura che si senta, che è bassissimo? Sì, sono sicura che si senta, sì, sì. E poi la tagliamo questa parte, dai. Non taglio niente, vi lascio tutto. È vai, parte del live action. Comunque siamo in studio e quindi non so, se volete dire qualcosa, bene, se no vi manderò a suonare. No, niente, comunque passate delle belle giornate, siete felici di quello che fate, perché se non lo siete felici è inutile farlo. Quanta saggezza, 15 anni, vabbè, senti, andate a suonare, intanto avete già parlato sta puntata, siamo a posto. A posto, bene. Ok, divertitevi. Ciao. Lasciamo suonare sti ragazzi, ma chi li ferma più? Bene, fatevene una ragione, perché lo staff di Dedicato è tornato al completo e mentre loro suonano, Dedicato must go on. Quindi ragazzi, la situazione è questa: abbiamo sempre i laboratori estivi da farvi ascoltare, perché ci sono tantissimi bambini e ragazzi che hanno voglia di dare la loro voce nella nostra trasmissione e mi scrivono, mi chiedono: ma quando va in onda? Quando va in onda? Perché in effetti l'estate è finita da un po' e quindi piano piano ve li facciamo ascoltare tutti quanti. Adesso andiamo in un luogo speciale e vediamo che cosa è successo. E dice: aiutami una, e l'altra arancia dice: arranciati. La mamma di un maialino dice a suo figlio: perché non vuoi mai andare a letto? E il bambino dice: perché sono un maialetto. Due persone, la prima dice ho tanto mal di testa e l'altra vai in farmacia a prendere una medicina. La seconda, ok, dammi un moment. Il padrone è uscito di casa, suona al telefono, il cane risponde. Quello al telefono, pronto? E il cane, bau. Come scusa? Bau. Come scusa, non ho capito. B di Bologna, A di Ancona, U di Udine. Un daino dice un altro daino. Giochiamo a nascondaino? Dai, no. Oh, che pantaloni bagnati che ho. Beh, come fai adesso che c'è il vento? Beh, in bici si asciugano. Ah, si asciugano? Sì, si asciugano. Ah, molto bene, grazie. E grazie ai bambini del laboratorio di Vidiciatico, quest'estate siamo arrivati anche in Appennino, al Corno alle Scale, in questo ridente paesino della montagna, e ci siamo divertiti veramente tantissimo perché questo era il momento, ovviamente, delle barzellette. Quindi nel nostro laboratorio avevamo diversi momenti dove insegnavamo a loro, insomma, i vari tempi di una trasmissione radio, dalla notizia, quindi, che può essere un giornale radio o che può essere una news della giornata, alle interviste, gli sketch e i momenti di comicità. Loro i momenti di comicità, in quanto bambini, li hanno interpretati come barzellette e hanno dato il meglio di loro. Ognuno di loro ha pensato alle barzellette più simpatiche che aveva. E comunque sappiate che anche questa non è finita qui, perché abbiamo almeno altre 60 barzellette, insomma, in archivio. Quindi arriveranno tutti i nostri bimbi. Questi erano quelli di Vidiciatico. Ciao bimbi, grazie. Sunny. Tears for Fears, che spettacolo! Bene, ora in realtà siamo un po' impallati perché di là si sono chiusi e stanno suonando. Io sono rimasta da sola e sto riflettendo sul da farsi, nel senso che fra poco potrei avere l'invasione dei musicisti folli, oppure potrei scegliere io di fuggire, ma adesso aspetta, vediamo un attimo, adesso ci arriviamo a capire cosa sta per succedere. Sarà per questa voglia. Ciao mascotte, cosa fai? Nervosia. Sarà per questa voglia, detta voglia di farti arrabbiare. Oh, oh, oh. Sì. Cosa fai? Sto disegnando e cantando. Ah, ok. Scusa, ma noi siamo in studio, cioè non dovremmo fare... No. Ok. E vuoi mandare un brano musicale? No. Mascotte? Siamo in radio, mandiamo un brano musicale. Hai fatto piangere a cantare, oh oh oh. No, non devi fare un brano musicale, lo mandiamo. Cosa mandiamo, mascotte? Miau. Miau, vedo se trovo un brano che si intitola Miau, allora. No, miau no, miau bau, miau. Ah, ho capito, va bene, ok. Si chiama Miau Bau. Grazie, mascotte. Grazie, sì, grazie, grazie. Abbiamo accontentato la mascotte, miau miau miau, quindi poi anche dico scritto da Gioacchino Rossini, quindi il duetto buffo per i due gatti di Rossini, insomma più di così che vuoi, volevi la canzone miau, la canzone miau, la canzone bau, ci pensiamo un'altra volta, ora procediamo e parliamo di cose serie, perlomeno ci proviamo, allora. Facciamogli un'altra domanda, come ti chiami ascensore? Mi chiamo ascensore! Senti, dove andiamo adesso? Andiamo a spesa. A fare la spesa? Sì. Ah, e con chi vai? Con la mascotte. Al mare? Ma non andavamo a fare la spesa? Con la mascotte. Sì. Occhi. Ah. Occhi. Occhi. E poi? Chiu. Come si chiama tuo fratello? Si chiama fratello piccolo. Fratello piccolo si chiama. E come ti chiami tu? Mamma. Mamma si chiama, molto bene. E che lavoro fa il tuo papà? Il pizza uovo. Il pizza uovo. Che mascotte traduci? Pizzaiolo. Ah, ok. Ed è molto bravo a fare la pizza? Pizzaiolo. Bravo, pizzaiolo. Questo scandito così ci sembra bravo. Molto giusto per la radio. Un abbraccio al nuovo speaker radio, Gigi. È impazzito Gigi. Well, I was walking for some time when I came across this sign saying who are you and where are you from? We don't like when visitors come. No trespassing, that's what it said. At least that's what I could read. No trespassing yet, my ass. Way to get a load of me. Come on. One day I was tripping and that's when I could see that the ether that I tapped into could be reality. It was great, that's when I climbed that optimistic vine. Once I hit that mountain peak, I began to lose my mind. I don't need no sympathy, I'll cry and whine. Life's my light and liberty, and I shine when I wanna shine. Sign saying who are you and where are you from? We don't like when visitors come. No trespassing, that's what it said. At least that's what I could read. No trespassing yet, my ass. Way to get a load of me. Hey. Oh. I ain't got BS in my bag. That's the one thing you can believe. My heart is gold, my body is glass. Come on, baby, can't you see? I don't need some time when I came across this sign saying, who are you and where are you from? We don't like when visitors come. No trespassing, that's what it said. At least that's what I could read. No trespassing yet, my ass. Way to get a load of me. Way to get a load of me. I said, oh, way to get a load of me. Ma scusa, mascotte, cosa stai facendo? Mangio. Ma il nostro pranzo, cioè, puoi aspettare che finiamo la trasmissione e mangiamo insieme? O devi mangiare tutto prima il condimento? Non si sta mangiando il condimento della pasta, ma ci rendiamo conto? Ma io non ho capito. Comunque, mascotte, questa incursione di questo bimbetto Gigi che avrà tre anni. Gigi, ma è amico mio, Gigi. Abbiamo uno speaker di tre anni, cioè, ma siamo fortunatissimi noi sì, in questa trasmissione. Chissà dove l'abbiamo trovato. Chissà dove l'abbiamo trovato. L'abbiamo trovato nella giungla, ragazzi, nella giungla. Ah, il famoso Gigi della giungla. Ok, ok. Va bene, mascotte, scusa, ma stavi cantando prima? Quattro senza tempo. Ah sì, perché io ti ho registrata. No! Sì, sì, certo. No. Sì. Giulia scocca fuori, il vento balla con le foglie e sembra l'onda cambia senso, squadre le manole e porta in grembo verde, fresco ogni passo ogni polo e certi dice certe cose io non riesco a cogliere. Giulia calza, prova i passi, poco niente, la pelle bianca che ricama, gli occhi mansueti ed ogni goccia di pioggia sui vetri li ammira mentre pioggia la punta dei piedi. Lei da bimba ballerina quasi come l'altra, sembra quasi che improvvisi mentre sarà l'altro. Se le scarpe bianche, guance, cade tutto il buio che si sparte mentre lei diventa grande. A volte cade e si fa male, sempre sale di stato, sempre il vento che gli spazi che non prova più. Tieni il braccio, tieni il braccio, poi ritrova un battito. Più giusti piedismi, insulti, giudizi, più insulti, buonismi di tutti e via. Danza di la sala fino a distruggersi, torna con la scala fino a distruggersi. Confondere con la ragione, sempre sul nostro sussurrando. Dai, dai, dai, fidati di te, riuscirai, riuscirai e ce la fai. Danza come il vento, danza come il vento, danza come il vento con il quale danzerai. C'è lui non fa tempo, quattro senza tempo, quanta grazia il vento quando danza tu la avrai. Raggio dentro tempo hai, se salta vento di brutale, l'aria in senso circolare, danza del suo. Ma complimenti, mascotte cantante, questo era Murubutu con Greccale. Sì, e... io amo Murubutu. Beh, lo so che tu ami Murubutu, tutti noi amiamo Murubutu, che cosa è questo? Mica solo tu. Però voglio dire, è venuta bene, hai rappato insieme a lui. Thank cioè. You. Complimenti, bene, bene, mascotte. Senza tempo, sì, ok, adesso mascotte ti ringrazio, questo già è uno studio abbastanza incasinato, che di là ci stanno quelli che suonano, tu che rappi. Inizia a diventare impegnativa. Mascotte, mandiamo un brano? No, non voglio mandare un brano. E cosa dobbiamo fare? Boh. Ah, va bene, adesso ci penso io. We'll be right back. Ok, per oggi direi stop music free in questo studio, perché veramente abbiamo esagerato. Direi che ci siamo espressi ai massimi livelli fra batterie, pianoforti, giovani rapper in erba, insomma ne abbiamo avute in abbondanza. Quindi direi che stop music in studio, e adesso mandiamo noi un brano, poi ci salutiamo. Traveling Band dei Creedence Clearwater Revival. Wow, siamo tornati indietro. Qua abbiamo ballato, invece che suonare in studio è scattato il ballo isterico nevrotico dell'autunno bolognese, e quindi ci siamo divertiti un sacco anche a ballare. Fanciulli, grazie. E oggi ciao, fate ciao con la mano, non fate i timidi, fanno i timidi, ok? Va bene, fate un ciao riconoscibile per favore. Da percussionisti hanno fatto vibrare lo studio, va bene, no comment. Ciao, ciao, ci rivediamo noi in studio, e con voi invece ci risentiamo la settimana prossima, sempre alle 13, sempre su Radio Città Fujiko, con dedicato. Ciao! Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato, chissà mai perché. Ai dimenticati, ai playboy finiti, e anche per me. A chi si guarda nello specchio da tempo, non si vede più. A chi non ha uno specchio, e comunque non per questo, non ce la fa più. A chi ha lavorato, a chi è stato troppo solo e va sempre più giù. Che ho stasera dedicato a chi ha paura e a chi sta nei guai, dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce non si